sabato, domenica, se mi ricordo, sabato, quando gioca la Juventus, e qua a cena la facciamo. La facciamo. Io sotto casa c'ho la pizzeria che fa i calamari, un bel buoni croccanti. Tanto con 5 euro te ne dà un bel po'. E l'ho presi una volta, qualcosa, 140 grammi, ma mi ha regalato almeno un mezzo pugno di roba. E me l'hanno fatta pagare 14 euro, ma ti danni. Non so, tu sono ok. No, io vado già a una piazzetta. Ho il telefono, cosa c'hai di roba di fritto? C'ho frittura mista, di tutto. Vabbè, fai un po' di tutto e porta, ma. E spendo, ma per tre però, tre porzioni, Spendo sempre intorno ai 18, 20 euro, 22. Cosa ti fa pagare 5 euro la porzione? Uno che sono un bel buoni, quelli di 140 grammi, pari a 5 gomma, non si via né a nulla. Questi qui sono quelli croccanti, mi fa buoni. E mi compro una porzione qui, una porzione di patatine e ci spendo 10 euro, capito? Già va bene, ma 140 grammi è caro, capito? Noi avevamo fatto un catering lì, e l'aria ha voluto fare un catering e ha regalato poco di roba, poi era tutta, praticamente tutta roba in miniatura, avevamo speso 60 euro. Ho detto non li chiamare più perché io c'ho fame. E infatti avevamo fatto altra roba nostra, perché c'era poca roba, capito, per quei soldi. Io la volta che l'ho presa a 140 grammi c'era Marco, mio figlio, qua a casa. E mi ha detto papà, questa roba non ci basta. Ho preso, ho fatto una telefonata giù e mi sono fatto portare due porzioni, ma nemmeno a paragone. Le porzioni un po' più grandi e poi sono molto più buone. Infatti non è che sia tutto questo grande, questa grande cosa, 140 grammi. Molto meglio già, una pizzeria. A camminare, tu l'hai già portato là? No, io adesso vado fra un po', alle 8 lo porto là. Non so se portarlo adesso, portarlo alle 8, non so. Io lo porto alle 8, poi faccio da mangiare via e tira gamba. Questi giorni l'ho portato più volte, l'ho portato all'ora di pranzo, eccetera, eccetera, quindi l'ho portato anche a luna. No, anche il mio, per carità, mi c'ho la porta chiusa e è coricato lì sotto la TV, poi c'è l'aria, quindi adesso arriverà anche Mario, non so se è già chiuso, sta chiudendo, alle 8 arriverà anche Mario, quindi sicuramente lo portano loro, vabbè, comunque, io sono qua ancora, beh, non c'è problema. Tu scioperato stai. No, già, cazzo, quando c'è, sono loro, io ho l'idea di portare un gatto, già lo porto, la verità. Mario esce molto tardi, capito? Ma di solito a fine settimana sono sempre qua, capito? Vabbè, comunque se ti può interessare, guarda che ha preso anche l'autolavaggio di via Carlo Felice. Quale? Dove c'è la Kuwait? Ah, proprio all'interno del rifornitore? Sì, sta facendo il gazebo, penso che lunedì lo piazzano, il gazebo esterne, e poi c'è sia lavaggio rapido che lavaggio normale, capito? Sì, è un'occasione, l'ha cercato il titolare della Kuwait, Tonino, siccome ci conosco, e quindi l'ha preso, ha fatto il colloquio oggi, infatti mi ha mandato un messaggio proprio fa, siamo ancora tutto a posto per via Carlo Felice, auguri a Giudizio, così già mi sei poco, allora mi sei mannuta. Cosa fa, ci mette un operaio? No, qua ci sta lui, gli operai sono giù, l'operaio, non ha tre, non uno. Capito. Preda Nieda però è un capannone, capito, quindi fa furgoni, moto, furgoni grossi, macchine, e poi lava sempre la macchina a mio padrino, si fida solo di lui. Lo sai che adesso io non la sto più lavando la macchina, la sto pure dall'interno e basta, perché sta sempre piovendo, cosa la lavi a fare? Che poi dopo 5 minuti più mattiere da Roberto, che mi ha sostituito lo specchietto retrovisore, ma ne sono nuovo. Ero lì senza fare niente, gli ho dato una pulita lì, stesso a Roberto. È uscita lucida lucida. E poi io non l'ho piovuta, però me la ferma, non l'ho sporcata. Infatti stamattina sono andata a prenderla. Ho visto che era bella, bella pulita. Sì, ma gli aloni li lascia sempre, nel nero specialmente. Dopo che piove, ti lascia gli aloni, capito? Perché c'è quella, quando fa vento si carica di polvere, capito? E poi li becce, maledetto bastardo, e sciuga. Ma ne ha buttato tutto nell'armadio del poggiolo. Proprio fa ne ha avuto a raccogliere tutto, passare la scopa e tutto. Ma ormai è entrata la roba di Filippo, prima che iniziasse forte. Ma allora di pranzo c'era le terrafiche, minchia. Io lascio sempre la tenda passata nel poggiolo della sala, però non la metto all'esterno, la metto dritta la tenda, di modo che il vento non ne faccia nulla, perché già una volta mi ha rotto i sostegni che ci sono. E niente, lo lascio così e il vento non li fa nulla. E ripara dalla pioggia, da tutto quanto, se no mi allaga tutto il terrato, fa un casino. Io nel terrato ho anche due armadi, armadi quelli in plastica dove metto le attrezzature, le cose. Quindi mi romperebbe le scatole se tra acqua, capito? E niente, mi lascio abbassata la cosa, la tenda, la metto dritta, però non esterna, se la metti esterna ti fascia tutto. Ehi, bracci, ti rompe allora. No, ma io non mi fido neanche a agganciarla così dritta, anche la mia c'ha i ganci dritti e poi i bracci esterni. Era troppo forte, capite? La gonfia, te la fa a vela e può spezzare gli anelli di sotto di mantenimento, no, non mi fido. Già si asciuga il poggiorno, no, io ho un armadio chiuso, un armadio fatto dal falegname, capito? C'è il flattico, quindi quando si bagna le vade nuda è una vita. Grande, dove mia moglie mette tutta la roba, mollette, secchi per lavare per terra, c'è mocio veleda, tutta la roba è lì fuori, perché poi dentro c'è l'armadio, la dispensa a muro, capito? Vabbè, e comunque siamo qua, e ste gai. Vabbè. Giornate qua non si sa come comportarsi, che si sentiva sta roba, mia casina, mia vetta, raffiche brutte. No, io quel problema l'ho risolto già, l'ho risolto, dopo i fissi, non più vetri, dopo i fissi, prima le finestre, i fissi alluminio, in tutte le cose, no, basta, mi sono scocciato. Un vento c'è qua, allucinante, quando c'è maestrale, non dormi, senti gli avvolgibili, c'è l'altra finestra esterna, quindi l'avvolgibile non si muove, a volte non so manco se c'è vento, sta piovendo, perché non si sente niente, nulla, prima un casino, quindi quello l'ho risolto. Dalla parte del salone non mi interessa anche se c'è vento, perché intanto tutte le camere sono dalla parte qua del giardino, quindi non me ne ho fatti nulla, però ho risolto, minchia. L'avevo fatto anche quando ero nono piano, dopo un paio d'anni era una cosa impossibile starci, quindi avevo messo i doppi infissi, capito? Però lì erano in alluminio, allora, sto parlando degli anni che furono, adesso qui sono in PVC, marrone, sembrano finestre, capito? Va bene, lei continua la catena, la massa che ne varia da una tossana. Vabbè, ma sono comunità che magari ti alleviano i problemi col vento, con la pioggia. No, io c'è doppi vetri, però doppi fissi no, doppi vetri in camera grossa, là, diciamo, c'è vetri quelli grossi spessi. No, beh, quelli c'erano più nelle finestre interne, già, è normale, non si usano più i vetri a una fascia solo, la massa si ha due, anche a tre fasce. Però il problema è l'esterno, è l'avvolgibile, capito? La tapparetta, che balla un bel quando c'è vento, proprio fa un casino Gesù Cristo e fischia. E quindi ho fatto questa cosa e vabbè, va benissimo alla grande. Anche via Pasqua era così, anche via Pasqua erano stesse PVC bianco, erano però. Va bene. E adesso c'è chi ha dato un po' di calma, un po' di coso. Vediamo, aspetta che ti accendo la luce, aspetta. Ma hai visto nel deserto che si è messo a piovere, ti mando il link, aspetta. No, già. Al deserto del Sahara, aspetta che ti mando il link. Ma sono i cammelli piscenti. Ma cos'è? Cos'è? Un video, cos'è? Te lo manda un'alluvione addirittura c'è stata. Ma gira le palle, vai, che c'è cosa vecchia sotto che c'è link? No, te lo giuro, non c'è nulla di cosa, vuoi leggere, non c'è niente. A me piace l'Italia, allucinante alluvione in mezzo al deserto, ma adesso dice che stanno crescendo le piante nel deserto, alberi eccetera, cazzo, una cosa allucinante, tutto pure i ghiacciai si stanno sciogliendo. Ehi, ma non posso immaginare, sarà proprio, lo sto freddo. Giorgio Bon Giovanni, tu vai e leggi quello che dice. No, no, è su internet o su Facebook? Su internet, tu cerchi con Google Giorgio Bon Giovanni e vedi che cosa dice della terra. Lui la chiama madre terra, che ci dimenderà, che un casino. Dice aspettate, aspettate, dice che gli UFO stanno scendendo, sono angeli mandati da Dio per salvare la terra. Ma noi stiamo continuando a fregarcene, a inquinare, eccetera. Addirittura. Vabbè, dopo me lo guardo. KK, io sono quasi gli 8 meno 10. No, non sono manco meno un quarto, non esagerare, sei avanti. No, ma sono, sì, 19.43, sì. Stavo guardando il telefonino, sono, perché c'ho l'orologio in alto e qualche minuto avanti, dai. Sono a 45 lì. Via, via. Oh, via. Non c'è una gara di barattere. Stamattina dovevo andare al mercato e adesso vado e mi guardo un po' il pesce. Beh, sono sceso giù, visto che c'era questo vento e cose, non me ne è venuta voglia, non ci sono andato. No, io stamattina sono andato dove? A prendere, mangiare per Filippo. Poi ho fatto un giro a Piazza dei Segni. Un caffè lì, pensare sì, ho trovato un amico, ho fatto due chiacchiere, e c'è appunto il chiosco anche lui della frutta e verdura, però mi ha detto che oggi non ha piazzato perché c'era troppo vento, se no ha detto che rompeva i teloni del coso, e poi sono rientrato a casa, ma sono uscito che erano a bolle le 10:30, e poi sono tornato a casa, tanto. Già vai Gigio, fai nulla. Ma il mercatino a Piazza dei Segni lo stanno ancora facendo lunedì? Io lo credo, lunedì Piazza dei Segni, martedì sempre via Tempio. Ma qualche giornata bella, giusto per farmi un giro, una passeggiatina così, anche per uscire un po' da Sassari. Qualche giovedì scendo a Porto Torres già al mercatino, però deve essere bella giornata, se no non ci scendo. Vai, scendiamo assieme. Sì, possiamo anche andare. Così vado a vedere un po' la mia situazione, che sono da molto che non li spazio. A vedere se questa vita qua ci fanno o non ci fanno. Perché non si sa come andrà a finire il tempo che non fa vita che non ci posso fare. E non si sa capisci. E vabbè, ti avvicini. No, ci andiamo lì, io mi ricordo. C'erano dei dolci favolosi, eh? C'era quel bancone dei dolci lì, quella parte lì favolosa. Sì, sì, a me i dolci ci riporta di seno, si chiamava, scendere con la mamma, me lo diceva lei, capite? Vai a prendere i dolci ai granai, oppure mio fratello li prende sempre lì, ancora oggi. Ma scendevo anche io a prenderli, molto buoni. Anche perché lì c'è coso rotto che portava i papacini, le cose, capite? Non so di chi era, ma la roba buona, anche i dolcini così, le pate, mi ricordo c'era roba squisita. Ma no, ci vediamo giovedì già, se fa bella giornata un giovedì passo a prenderti e scendiamo, capito? Fa una passeggiata, male. Un po' di verdura, un po' di frutta, colottologi, così, un giretto, dai. Io scendevo, ma non dico tutti i giovedì, ma quasi, quando era vivo Giampaolo, poverino. Abitava lì via delle vigne, facevo un giro, trovavo un bucaretto, andavo a prendermi il caffè, la Giampaolo, due chiacchiere e poi facevo un giro al mercatino. Per me qualche formaggella, grazie. Via delle vigne numero 15. Ehi, ehi, ciao Giaffa, ho acceso il nostro, finalmente, però se non mi ricordo il connettore dell'antenna qual è, c'è Int Tunnel, quello lì. Quello tunnel serve per l'antenna che c'ha lui, e l'altro serve per collegare il BNC per la tua antenna, quella esterna, capito mi hai? Ecco perché sento un ma non ho trasmesso, capito? Non ho trasmesso, ho messo allora, ho sbagliato il connettore, quindi Int Tunnel è l'antenna sua, quella la britella, mentre l'altro invece è l'antenna quella sul tetto, così è. Sì, allora, quando utilizzi l'antenna sua ci devi mettere il ponticello BNC, quando invece utilizzi un'antenna esterna devi staccare il ponticello e mettere il BNC della tua antenna esterna collegato a quello dove c'è ingresso TX e X, dovrebbe essere una cosa del genere, perché la parte tunnel è riservata all'accordatore e in quel caso non lo puoi usare, ovviamente. Poi se senti un beep probabilmente hai toccato quella manopola grande della commutazione d'antenna, che per la 2730 dovrebbe essere tutta in senso antiorario, poi c'è scritto, quindi già insomma lo sai, no? Adesso parla con lui che metto, a ver se sento quel bip che cambio il connettore, se il BNC ce l'ho, BNCN, lo sto mettendo col cappetto uscita PL, adesso lo metto nell'altro connettore, aspetta, riprendi già. Sì, dai Giofra, vai e fare un corso accelerato l'uso della radio. Buonasera a tutti! Qui Antonio! Ciao! Adesso mangio, ci sentiamo tra un po', ok? E ok, io sto andando a portare il cane fra poco, ci sono più. Dai, ci sentiamo, buona carica! Ciao Antonio, buonasera! E buona lizza! Non ho capito perché c'è gente che sta trasmettendo sul canale sotto, ho visto, però tutta fuori frequenza. Ma sul 12? Sì, sono sul 12, però sono su 2700, ho capito, non su 2705. Quindi sono portati di frequenza. Lo so, stavano anche splatterando qua, non a me, ma a Luca, per dire, non riusciva più a sentirci. Oh, Giaffra, ma come, non ci sono problemi? Ho detto Giaffra, ma ha detto il connettore per la 27 dove lo devo mettere, io non ho toccato niente, ce l'avevi in 27 tu, dove devo mettere quello grande, che c'è 7,7, 3,5, quello lì dove lo devo mettere? Giralo tutto in senso orario, lo sai, sì, come la noce del luglio. Quindi troverai 11 credo, poi da 11 che so, a 12 e poi da 12 a 20, una cosa del genere, tutto gira tutto, ma dovrebbe già essere messo per quella frequenza se non ricordo male, anche la canalizzazione su quella frequenza se non è toccato niente. Claudio, ma mica sta invecchiando qui. No, ma aspetta, se ti ho detto, giralo tutto fino a che senti che non va più, che dovrebbe essere 29, 25, 29 o 22, l'ultimo cosa c'è scritto? Gira quella manopola grande, la più grande che c'è, girala, farle fare tutti gli scatti fino a quando scala. Sì, è quasi a 30, però quando schiaccio la portante PTT sento un fischio nella colonnina, devo attaccare l'antenna. Probabilmente sì, attaccaci l'antenna, vedi cosa sì. Ma sai che l'attacco, non è che l'attacco da qua però. Oh, senza antenna vuoi dici? Oi. È che è proprio facile mio, è fatto per la battaglia. Figurati, sempre noi questi, che fortunatamente hanno pochi tasti, però ci hanno tante scritte, oi. Vogliono studiarti per gli apparecchi prima di usare, non li puoi usare così, no? Devi studiarti per il manuale. Sì, se lo trovi in italiano, sì. Però oramai sono tutti apparati, sono tutti fatti con tecnologie SDR, tutti quasi, quelli militari, quelli civili, anche stanno iniziando qualcuno radioamatoriale. Oramai di radio come le abbiamo conosciute non ne fanno più, capito? Tutto le altre non c'è niente, e in realtà c'è tantissima roba. Ti prendi la lente e prendi un coperchio di corsa, chiudi tutto subito perché ti spaventi. Oramai scordati di metterci mano dentro perché sono talmente piccoli, prima c'erano gli SMD, adesso sono mini SMD, quindi ancora più piccoli degli SMD, è una cosa, cioè non ti basta neanche la punta del più fino saldatore se devi fare una saldatura, sono tutti attaccati tramite il robot oppure se proprio devi staccare qualcosa d'aria calda, è una cosa pazzesca. Se devi fare una riparazione minimo ci vuole la lente. Guarda, quando si è rotto il radar qua, l'ho mandato prima in Germania, che era in garanzia, dalla Germania mi hanno comunicato che lo mandavano alla fabbrica in Inghilterra. E presumo che di lì abbiamo tolto la scheda, rimessa, richiuso e rispedito, perché è anche arrivato abbastanza velocemente. Perché nessuno, perlomeno qua in Italia non c'è nessuno in grado di fare quel lavoro lì, capito? Perché per ripararlo ci perderesti 5-6 ore col microscopio, perché oramai iniziamo a parlare non più di lente, solamente che vengono tutti i laboratori, ma di roba tipo microscopio. E con la mano da chirurgo, anzi, guarda, è più facile fare il chirurgo a questo punto che fare lì, stare a staccare anche una resistenza da quelle piastre, a parte lo stagno che stanno usando che è durissimo, cioè scioglie a temperature molto più alte rispetto a quelli che abbiamo cosciuto noi, cioè il piombo, e quindi è una cosa allucinante. Infatti le prendi e ce le butti, fai prima. Sì, stanno facendo in modo che tu te lo cambia, veloci, di modo che te lo compri nuovo. Vediamo un po' se Claudio ha partorito. Claudio, che fai? Passate al 18. Al 18? È nel canale 18, passate lì. Ok. Vai a distorcere. Ecco, allora volevo parlare così, dal microfono. Parlare a voce molto molto bassa, sì. è un casotto. No, rimettilo, puoi tenere il processore di 10 litri a 1,5. A 1,5 andava bene. Non è alta, però è assolutamente comprensibile. Notevole. Grazie, è bella idea. Molto bella, veramente, veramente. Cioè, sono in piedi col cavo lungo, già ho già da ridere. Ma mi senti bene già? Bella! Bella squillante la radio, altro che non è alta. Ma io lo sento molto squillante, proprio forte. Ma da dove stai parlando? Della cornetta? La microcornetta, microcornetta. Sto telefonando così in piedi. Ah, mandamela un video, cazzo, lo voglio vedere in acceso, che mi stai impollando. Eccomi, mi senti, Claudio? No, mi va sotto, vi sciogo che faccio la microcornetta. Carabinieri, pronto, basso, pronto. Ehi, sotto disoccupenti, devo farvi da un pochetto più piano, devo farvi da. Cazzo di affare, che è forte, minchia, che bello, veramente bello. No, guarda che me lo faccio fare già il video. Poi mi ascolto anche, capito, mi sento nella colonnina esterna. E ti dico che è una bella modulazione, sto ascoltando perché ho messo la sintonia continua col 140. Ho tenuto la portante e ho visto che si è fermata al 18 a fondo scala, capito? Quindi adesso devo sapere tramite Gianfranco gli spostamenti per il canale 10, perché è veramente interessante, cazzo che bella è. Guarda, devi guardare tutte quelle manopoline e vedrai c'è scritto 27175. Ehi, adesso mi metterò alla caccia con la... Ma mi sono aiutato con la sintonia continua, capito? Mi sono aiutato con la sintonia continua. Non so che me lo faccio fare dall'aria al video, eccolo qua. Sono in piedi, aspetta, chiudo la finestra. Niente. Mi sono aiutato con la sintonia continua per aiutarmi praticamente alla caccia della portante, diciamo, là, perché sul 10 non vi sentivo, c'era il QRM e basta, capito? Quindi Gianni, va bene, ora, 6 watt ne ha un bene, Gianfra, 25 watt sta modulando. Se te l'ho detto, cioè, guarda che di lì poi c'è la manopolina, quella che ho usato per accenderlo, che c'ha test antenna, poi test, poi batteria, e track, alta e bassa potenza. Ehi, si conferma. Gianni, uno spettacolo! Ed anche comodo, perché stai seduto, c'è il cavo lungo e praticamente arriva sino... Come che stai telefonando? C'è il pulsantino, la microcornetta, no, quella dei carabinieri. Pronto, basso! C'era un incidente qua, cambio! Gianfra, hai fatto conto del bambino, gli ho regalato il giocattolino. Chiamo dei carabinieri! Claudio, quello lì, se tu lo guardi bene, se segui quel filo, vedi che c'è un altro connettore. E siccome non è una radio, cioè essendo la radio che era, c'è un altro connettore separato. Adesso non so se ci sia il tappo di chiusura o cosa ci sia, non me lo ricordo. Quello lì può essere usato per la trasmissione dati oppure eventualmente per il cripto, per la codifica. Se lo guardi vedi che c'è anche quello. Si conferma, va bene, si conferma. Adesso mando il video a Gianni, poi Gianni farò girare e così lo vede anche Antonio. Minchia, molto, molto interessante, veramente ad hoc. Eccolo qua, te lo sto mandando Gianni, dava il tempo di caricare e va bene così, dai, ottimamente bene. Però raga, io adesso lascio acceso qua, così questa radio inizia a prendere un po' quota. Gianfra, ti volevo fare una domanda, siccome voglio darle una rinfrescata, perché hai visto che è praticamente graffiata come era nella sua sede che l'ho tolta, mi sa dare un'info dove posso trovare una vernice verde militare o devo farla fare? Guarda, storia, quello che fate che io come vernici sono zero, proprio a ognuno il suo lavoro, non mi chiedere roba di vernici, perché proprio quel tipo di vernici, che tra l'altro sono eccezionalmente robuste, non ti so rispondere, perché ci va proprio una vernice sicuramente particolare, tenendo presente che quegli attrezzi, essendo portati a spalla, andavano anche in acqua, ecco, antenna e tutto, anche il microtelefono. Quindi quello lì ha fatto la guerra dalle Falkland, quando praticamente in Inghilterra come primo ministro c'era la signora Margaret Thatcher, che se ti ricordi bene facevano anche i film di 007 con chi c'era, allora non mi viene cosa, Roger Moore credo fosse. Ma si possono ottenere questo tipo di radio? Beh, noi sì, noi possiamo tenere tutti i tipi di apparati, l'importante è che siano conformi alle cose amatoriali, ecco. E quello lì, c'è tantissima gente, ex carabinieri, ex militari, finanzieri, eccetera, ci sono proprio le associazioni che usano solo quei tipi di apparati, perché è una cosa ovviamente che uno ha usato per tanti anni ed è anche un ricordo del coso che ha fatto di lì nelle forze armate. Io non so, Claudio, se tu hai fatto l'operativo, ti dovresti conoscere quegli apparati quando eri ragazzo. Io ho conosciuto quelli dell'arma che erano a 33 MHz, credo giù di lì, e mi facevano veramente ridere. C'erano micidiali tutti colorati, poi c'era una manopola rossa diretto e l'altra verde, sono ripetuto viceversa, una cosa del genere. E niente, dimmi un po' se ti ricorda quelli lì di quella data, quello degli anni 70. No, ma è la cosa che mi sta veramente, è quello smitterino piccolino rotondo che è una cosa favolosa veramente. Sì, beh, me li ricordo, anche perché io sono stato imbarcato sul Vittorio Veneto quando ero militare, poi ho fatto trasferimento alla scuola agli sottufficiali della Maddalena, e ne ho visto tantissime di questi tipi di radio qua, però erano un po' più a cassone, questa è più praticamente, guarda, è grande, e l'ho messa sopra il pace, la foto che ho mandato sopra il pace 2003, è alla stessa grandezza anche come larghezza, lunghezza, altezza, quindi non è molto grande, però io ne ho visto di altri tipi, capito? Gianni, guardati il video, da ridere, sono in pigiama, comunque c'è da ridere, ma è veramente, avete una modulazione splendida, stupenda veramente, alla grande. Antonio, mi ascolti bene tu? Cambio! No, ma ti ascolto benissimo qua, ti ascolto bene bene bene, Lucio. La popolazione va bene. Ecco qua. Adesso ti registro, va. Claudio, ma non mi ha mandato l'apparato acceso, volevo vedere l'apparato io. No, no, no, non è così che funziona, o Gianni. Quello Luci non ne ha, ma neanche una, neanche lo suo strumento, perché se quello fa Luci ti becchi una pallottola in testa, capito? Ecco, infatti in modo che si camuffi, ho capito, dai. Non c'è Luci, ho capito. Allora ce l'ho già l'apparato di per sé, l'ho già visto, molto bello, particolare, va bene. Già, essendo una radio militare non può essere illuminata, te lo vedo, infatti cosa ti ho detto, pensavo si illuminasse lo smitterino, no? Però non si illumina, praticamente, però lo vedo, bello, bello, segnale, vedo i segnali, vedo tutto, e poi quando schiaccio la portante si muove, mi dà il picco di modulazione, caspita, veramente molto, molto, molto bella, veramente. Questa sarà la seconda radio che modulerò, perché è molto interessante, anche sembra che stai telefonando. L'hai visto il video? Mandalo Antonio, gli ho mandato la radio Antonio. Io mi devo allontanare però, mi devo allontanare perché devo portare il cane, già, sono già le 8:10 a Cipicchia. La lascio accesa e ci sentiamo appena salgo, ok? dai, sto andando anch'io, dai, ti saluto Claudio, saluto anche tutti gli altri amici, sto andando anch'io a portare il cane, dai, ci vediamo, ci sentiamo, brincola. Ciao Antonio, ciao Gianfranco, ciao Claudio, corriti per me. Ok, dai. Comunque me lo faccio un controllo che sta provando un poco. Sta uscendo male. Com'è? No, Antonio, occhio, che sta uscendo. Il segnale sta andando da S9 spiccioli a S5. Controlla TPL e tutto quanto, che c'hai qualcosa che non va prima che fai danno. Claudio, aspetta un attimino che ti faccio ascoltare questo, così almeno lo imiti poi, soprattutto se sei l'antenna sua. Senti. Oh, ascolto te, ma mentre sono ucciso, Thomas, Christian, Pignatati, catturati, ne vediamo nel caffè. Te lo ricordi, Fioretto chiama te di voi? Quello che sto usando. Va bene, va bene. Allora, 27. Allora, però questo deve essere messo qua, allora aspetta, invece così sì. Allora, 27 75 00 100 meter 27, no, questo non è 75, aspetta, aspetta un attimo. Ma sei quel 10. No, siamo nel canale 18, non siamo nel canale 10. Però devo mettere 27, e questo è un po' particolare la radio. 27, 175. 175 il canale 18. Beh, se 205 è il 20, fate i conti. Sempre il 15 devi scendere, prendi la calcolatrice e fai così, 205, 285, 285, 265, sempre il 15. Ok, vai al canale 10, vediamo se riesco a metterlo, che tolgo l'1, perché qua fa 2, no, è 10 MHz, 7, 10, 7 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 5 kHz, 100 Hz. Aspetta, vai al canale 10, vediamo se mi senti. Ora, ora, ora. Sì, qua ci sei. Ah, eccolo qua. E allora già faccio, dai. Benissimo, benissimo, benissimo. Abbiamo già capito tutto. Non problem. Meglio così. Spero che vada a controllare il fornetto, 2 minuti. Che c'è la fornetta, so che si incendia, 2 minuti. Arrivo subito. Eia, va bene. Va bene, va bene. Adesso pulisco questa micro cornetta. Attento Gianfranco, cambio. Prova, 1, 2, 3, prova, radio, prova. Ora, ora. Ciao Lupo Grigio, buonasera, ti ascolto basso basso. No, sono andati tutti a pappare. Io stavo provando una radio e quindi sono qua. Sì, sono rientrato adesso col cane, quindi... Adesso mi sistemo nuovamente e vado a pappare anche io, gappa. Non so, sto provando qua. Va bene, va bene. Ok, dai, ci sentiamo dopo al limite, Lupo Grigio. Ciao, buona cena, buon tutto e alle prossimine, ok? Ciao, ciao. Dai, un saluto a tutti, ci sentiamo dopo e vado a mangiare. Ciao, ciao. Attenzione, attenzione a tutte le unità del canale 10. C'è in corso un inseguimento di fulmini e di tuoni, cambio. Non di so che c'è inseguimento di droni. Audio! Dai, ci sentiamo dopo, mi hai fatto la doccia, ci sentiamo dopo, dai! Pronto? C'è nessuno? Pronto, pronto? Che classe, già ci sono, mi sto preparando a farmi la doccia. Fai, Anto, già sono in ascolto, dai, stavo facendo gli esperimenti qua, sono passato sul canale 10, già le ho trovate le frequenze, dai. Va bene, sono qua in ascolto, Anto, a dopo. Che ha pagato ogni avvento, che bella notte, tro. Dai, io vado a lavarmi. Va bene questo amplificatore di oggi? Sì, che va bene, ottimo per la truppa, non c'è problema. Sì, e ne ha dopo. Ma con questa radio non lo vedo il segnale, hai capito? E c'è uno smitterino piccolo, tu, capito? Poi magari facciamo la prova col grande, a vedere se... col grande, oddio. Questo è un buon ragione lo stesso, però facciamo la prova con l'altra, col K, a vedere, o col Galaxy, a vedere come arrivi, ok? E K, è un bijou questo, un amplificatorino. Io penso che sia uno dei migliori. Cioè, non satura, non fa di nulla, cioè. No, ma infatti, te l'ho già spiegato tu come funziona. Devi trovare un'opzione dove ti garantisce l'aumento del segnale e automaticamente ti tiene anche la radio, capito? Tutto lì. E K, questo qua c'ha la scheda RMI, dimmi. Questo qua. qua proprio, perché questo è uno degli ultimi, penso. Anche quello là era uno degli ultimi, ma chi c'è proprio quello... Questo va alla grande, va. Certo, se va bene bisogna far andare quello lì. Va bene, vai a farti la doccia, vai, ci sentiamo dopo, ciao. Sì, ok, vado. Non scalda nulla, nulla, nulla. Ho già provato, è un bijou. Ok. Ehi, a dopo, ciao, ciao. Sento giù.